Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Celle in area di rigore, prova a passare su Bonucci, passa Zapata, Buffon si immola, ma non basta, la palla entra dentro e l'Udinese in vantaggio con lo strappo clamoroso di Duván Zapata. Eccolo Dybala, cerca il secondo palo, la palla entra, la Juve segna il gol dell'1-1 con Leonardo Bonucci. Eravamo tutti pronti a celebrare la chiusura della partita scudetto dopo aver visto ieri la Roma liquefarsi all'Olimpico contro il Napoli. Insomma, il più 10, tutto scritto, era tutto scritto negli astri. La Juve va a Udine, Del Neri che tiene fuori Terò, il miglior giocatore, le accuse pronte, si scansano, non si scansano, e invece guarda qui. È uscito il primo pareggio stagionale della Juventus, che fin qui aveva soltanto vinto o perso. Juve a più 8, per carità, scudetto carissimo Carlo. Secondo me è già chiuso a prescindere, però cambio la notizia qualcosa. È che non c'è il più 10, quindi non c'è il bollo sulla fine della lotta. ma c'è lo stesso, non cambia esattamente zero il fatto che la Juventus abbia pareggiato peraltro in rimonta come ha fatto oggi a Udine. Molti hanno detto pensano che normalmente l'Udinese si scansi contro la Juventus. Oggi non ha fatto nulla per scansarsi, ha giocato un'eccellente partita, pari giusto, cambia nulla. Saluto Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Non si è scansata l'Udinese, si è un po' scansata la Juve, perché non è stata la migliore Juventus. Sì, non è stata la migliore Juventus, però lasciami sottolineare quello che accennavi come una ironia, che io però non trovo più ironico ormai. Cioè, che anche alcuni addetti ai lavori, alcuni giornalisti, che un pochettino mi vergogno a definire giornalisti, parlano sempre di queste cose sulla Juventus, sinceramente è un po' stupato, perché alimenta soltanto un odio nei confronti di una squadra e di una tifoseria che ormai sta diventando anacronistico. Anche perché, come dire, anche in Europa io, che non tifo per nessuna squadra, trovo che sia un motivo d'orgoglio per l'Italia avere una squadra come la Juventus. Quindi lasciami dire che è veramente fastidioso questo coro. Abbiamo letto qualcosina dopo che ieri Del Neri, devo dire, secondo me anche incautamente, ha detto Terò sta fuori perché abbiamo partite più importanti. Insomma, sì, però oggi ragazzo Del Neri, mio, lascia Del stare Del dirlo, Del di dirlo, non di scegliere. Sì, ma perché se bisogna avere un'interpretazione maliziosa? Abbiamo visto oggi Del Neri che è stato espulso, infuriato perché per una punizione che secondo lui non c'era. L'Udinese ha giocato come degli assatanati dal primo all'ultimo minuto. Allora questo diventa veramente offensivo, è un retropensiero che non va bene per il clima del nostro campionato. Ma infatti vale la pena prenderli un po' in giro, no? Sono d'accordo, questo sì. La pena prenderli un po' in giro perché è stata tutta una montatura giornalistica, una pagliacciata. Sul tema dell'ironia mi trovi sempre d'accordo. Sul tema tecnico invece della Juve di oggi, insomma, che riflessione ti viene da fare? Ma mi viene da fare che innanzitutto sulla fascia destra, per esempio, la Juventus aveva fretta, lo si è visto anche dopo l'1-1, aveva fretta e la palla non scorreva da un lato all'altro con la semplicità e con l'armonia che solitamente la contraddistingue, soprattutto sulla fascia destra, tant'è vero che poi, ma lì è stato bravo Del Neri, è stato bravo l'Udinese nell'anticipare sempre il passaggio in profondità sul lato destro. Poi Dani Alves ci ha messo un pochettino del suo, devo dire la verità, a perdere innumerevoli palloni, quindi poi, anche se è vero che poi da quel lato poi è nata la punizione del gol, però mi è sembrata meno fluida in quella situazione, troppi errori di passaggi semplici con un Dybala e un Higuain un pochettino sottotono. Ma è una domenica che può capitare, o dobbiamo trarre qualche indicazione? È ovvio che stiamo spaccando il cappello, ma quando una squadra viaggia a una proiezione fissa oramai di 94, 95, 96 punti, noi dobbiamo spaccare il cappello. Quali indicazioni si possono trarre? Cioè, una squadra che non ovviamente il campionato in tasca. Beh, però 10 oggi, punti, oggi Allegri aveva fretta di andare a più 10 punti, ieri ma l'ha detto, ma cosa cambia? Ha fatto giocare i titolarissimi, quindi noi spacchiamo il capello e voglio capire se traiamo direttore qualcosa che non l'allenatore, diciamo che è vero, sì. Che sono due punti, però è un punto clamorosamente guadagnato sulla seconda, se la vogliamo vedere in quest'altra maniera, cioè prima erano 7 punti di stacco, adesso sono 8 e siamo alla 27esima giornata, insomma mi sembra un bottino abbastanza rassicurante. Poi per carità può succedere di tutto, però io vedo che sia per la lotta salvezza che per la lotta, diciamo, delle prime posizioni, definendo, diciamo, sia l'Europa League, sia la Champions che l'Europa League, mi sembrano abbastanza, diciamo, identificate tutte le posizioni. Sì, c'è da capire se una tra Roma e Napoli, ma non credo, possano in qualche modo riaprire la porta per il terzo posto Champions League. Vi do un dato statistico che magari può contare quello che conta. Da oggi Allegri non può più raggiungere i 102 punti di Antonio Conte, al massimo potrà arrivare a 100. No, do questo dato che sembra banale e probabilmente lo è anche da cazzeggio di dopo partita, perché in realtà io nelle ultime settimane di Allegri, io voglio dire la verità, ho visto quasi un tentativo, sai l'ultima stagione di Conte, quello di voler comunque mettere il suo bollo secondo su me tutto. Conoscendo un po' Allegri non gliene può fregare di meno non gli importa nulla di quel tipo di record. Lui sta pensando ad altre cose, ma io l'ho visto affamato, vuole la terza Coppa Italia, vuole, non lo so, direttore. Ma guarda, io ho avuto modo di apprezzarlo Allegri, nel senso che ho la sensazione del collega che diceva che non gliene può fregare di meno. È così, cioè è un personaggio strano ma anche molto attento, cioè la metodica di allenamento, i rapporti con i giocatori, ma soprattutto i dati statistici, i numeri, è un qualcosa che, ecco, queste sono le cose che lo attirano, non il record in assoluto, ma il raggiungimento di un obiettivo e tenere sempre i piedi per terra, appunto ragionando sui numeri. Quindi ha questa freddezza lui, e così ha ottenuto, diciamo, successi, risultati, se dovesse vincere il sesto scudetto consecutivo della Juve, per lui sono il quarto scudetto che vince, un bel bottino, insomma. Non è uno che, ecco, ha una fame particolare, ma cerca un pochettino dei traguardi sempre diversi, quindi ecco, se noi dovessimo ipotizzare una Juventus senza Allegri a fine stagione, magari, ecco, questo è un discorso che si può fare. Io credo che il finale sia abbastanza scritto. Lo si dice da troppo tempo, anche se non è definito al 100%. Io di questo sono abbastanza convinto. Ci sono anche nomi sulla possibile successione di Allegri, Allegri all'Arsenal, Allegri in altri luoghi in Inghilterra, però ecco, vedo ancora un pochettino in divenire questa situazione. Ma questo secondo te dipenderà dall'esito della Champions League? Sì, secondo me sì, perché sulla Champions League, diciamo, la Juve punta il banco quest'anno, ecco. Quindi mi sento di dire che lì, anche se si cerca in tutte le maniere, anche psicologicamente, anche come comunicazione, di dire ma sì, ma no, insomma, a noi importa rimanere in un certo range rispetto anche alle altre squadre, alle altre grandi europee, però insomma l'obiettivo è questo. Ecco, un'ultima cosa, dovesse vincere la Champions League, aumenterebbero o diminuirebbero le possibilità che rimanga? Aumenterebbero. Quindi non l'idea che se ne vada con la Coppa in mano. Io ho un'idea diversa, io ho un'idea contraria. Sì. No, può essere, c'è tutto, ma anche perché non parlano chiaro. No, diciamo la verità. Guarda, su questo non mi sbilancio, ecco, quindi per me mi va bene qualunque tipo di previsione. Non dico no, per carità, vince la Coppa e resta, assolutamente. Se mi dici può essere che aumentano, può essere, perché poi non sappiamo, come dire, il coro di entusiasmo, il trascinamento che ci può essere di fronte a una conquista del genere, dove può portare. Lì sono delle variabili che, insomma, non sono codificabili. Diventano difficili da controllare. Abbiamo esatto. Il traffico, io voglio rubare 30 secondi ancora prima del traffico, approfittando del direttore di Tutto Sport per sapere che titolo mi fa domani sul Gallo Belotti. Ma andiamo su Gallo, Re Gallo, 22 gol, 24 partite, due triplette, possiamo dire? Quattro doppiette. Quanto vale oggi? 100 milioni, è scritto sulla clausola recessoria. Avete visto Cairo come era contento in tribuna, insomma, non solo al pareggio, ma dopo, insomma, è un giocatore che acquista valore sempre di più e c'è questa clausola spettacolare, ma a questo punto è una clausola, come dire, normale, ecco, non è una cosa, non è, prima sembrava fantascientifica, adesso non tanto. Sì, si pagano quasi col sorriso sul labbro, quasi. Grazie direttore. Grazie a voi, grazie. Ciao. A voi. Grazie Paolo De Paola, 800 24 00 24, prenotatevi per intervenire. Riusciamo a prendere i primi 30 secondi di Massimiliano Allegri e i microfoni di Premium? Mai spesi bene. No, abbiamo guadagnato un punto sulla Roma, abbiamo 8 punti di vantaggio, veniamo da un periodo molto impegnativo perché abbiamo giocato molte partite di grande importanza, veniamo a 7 vittorie. Abbiamo trovato un Udinese dove oggi ha grandi meriti perché ha giocato una partita fisica, ha raddoppiato, ha triplicato. Noi bisognava essere un pochino più veloci nella consegna nel primo tempo e un pochino più pazienti nel secondo, invece venivamo invitati a giocare sempre questa palla sopra senza mai variare un pochino le giocate. Però è un punto importante perché ci permette, come ho detto prima, di guadagnare un punto sulla Roma. Anche se avessimo vinto non è che il campionato fosse chiuso, mancano ancora 11 partite e bisogna fare tante vittorie. Questo Allegri allora, punto guadagnato sulla Roma, 800 24 00 24, vi aspettiamo, prenotatevi per intervenire in diretta fino alle 19 con colpevole ritardo alla linea al traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. No, io credo davvero, sono convinto che oggi qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Gigi Del Neri per le insinuazioni, insomma, di voler impostare una partita senza metterci il massimo dell'ardimento, situazioni nate dalla scelta di tenere fuori Terò, che indiscutibilmente è il miglior attaccante dell'Udinese. Poi l'Udinese ha risposto con quella partita lì oggi contro la Juventus, e ha ragione secondo me il direttore De Paola, sarebbe anche ora di tornare a ragionare di cose serie e non di scansamos e cose varie. No, ma che tra l'altro dovrebbero chiedere scusa secondo me all'Udinese tout court, perché questa affermazione non nasce con l'Udinese di Del Neri, ma nasce o nascerebbe da questo colossale e anche inelegante equivoco che è venuto fuori. L'Udinese con la Juventus si scansa sempre, come se fosse un dato storico certo. L'Udinese non si è scansata oggi, non si è scansata altre volte. La Juventus ha giocato un'onesta partita, nient'altro, ha portato a casa un punto importante e Allegri fa giustamente i conti della serva. Abbiamo guadagnato un punto su una concorrenza che di fatto non esiste più. Sì, giusto per completare l'informazione, in Udinese Juve ci sono anche due o tre di quelle cose che fanno discutere, un paio di proteste della Juventus per due contatti in area di rigore. Diciamo che oggi non è andata benissimo alla Juve con la direzione di gara di D'Amato, però questa è materia per i moviolisti. C'era una trattenuta su Dybala, forse una gomitata su Dani Alves, vediamo. 800 24 00 24, scrive un amico: Allegri come Conte dà l'immagine che si sia un po' montato la testa. Io non sono d'accordo. Secondo me Allegri come Conte dà l'immagine di dover capitalizzare il massimo in questa stagione, ed è lì che io faccio il parallelo. Poi da oggi non puoi più fare 102 punti. Ma l'idea che ci sia da raccogliere tutto perché siamo alla fine di un ciclo. Guarda che gli hanno fatto vedere due episodi da Moviola e sta ridendo con Allegri. Sentiamo cosa dice. Sentiamo Allegri. Bonucci, sì, sul gol di Bonucci protesta l'Udinese per una punizione, viene allontanato anche Del Neri, e in questo caso vediamo che Dani Alves si sposta la palla, però Perizza la tocca anche lui. Vediamo, Del Neri si è fatto espellere su questa chiamata dettagli del signor D'Amato. Cioè, tu intendi, però c'era. Tu intendi dire che dovrebbe fare i conti sui 100 punti di Conte? No? Secondo me davvero non ne importa nulla. Davvero. Cioè, Alfonso non, da Roma, dai, Alfonso. Non è il tipo. Alfonso? Ciao, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione. Vai. Solo una brevissima cosa sulla Juve di oggi e sul commento che stavate facendo. Io premetto, da interista dico, non ho mai creduto al fatto che le squadre contro la Juventus si scansino, perché comunque è da anni che la Juventus domina in campionato, in Italia, balbetta un po' in Europa, però insomma domina in maniera incontrastata, perché non ho mai creduto. Però c'è da dire, secondo me, che comunque in alcune circostanze, probabilmente non oggi contro l'Udinese, ma in alcune circostanze qualche scelta forse degli avversari è stata un po', insomma, sotto, messa un po' sotto la lente di ingrandimento. Però questo era giusto un commento. Invece Perdonami Alfonso, secondo me il problema non sono le scelte. L'Udinese oggi dimostra che si fa una scelta che si può criticare, per carità, si può legittimamente criticare oppure accogliere con gli applausi. Poi in realtà quello che conta è la capacità in campo di riuscire a fare partita, che probabilmente prescinde dall'idea di avere in campo o no l'attaccante più forte. Oggi l'Udinese è riuscita a fare prestazione e questo dimostra che non è tenendo fuori il numero 9 che si decide di scansarsi. Prego, sì, Alfonso. Stiamo parlando di Terro, buon giocatore, ma non stiamo parlando di Higuain o di Belotti, visto che siamo in tema. Assolutamente, infatti, perfettamente d'accordo. In realtà la domanda più che altro era questa. Io sono tifoso dell'Inter, per cui mi interessava sapere, insomma, anche da parte vostra un commento, nel senso... La partita di domenica scorsa contro la Roma e quella oggi, o comunque anche le scelte di Pioli oggi, sono state un po' in controtendenza. Domenica scorsa, secondo me, ha provato a fare qualcosa di diverso, travolgendo un po', e ha concesso alla Roma tutto. Io non credo ci sia, seppur comunque con una differenza, chiaramente, ma non credo ci sia tutta questa differenza contro la Roma. Chiaramente l'Inter in questo momento è in fase di costruzione. Tant'è vero che la partita di ieri del Napoli, che comunque resta superiore tecnicamente, qualitativamente, come palleggio, come qualità di gioco e come uomini probabilmente ancora rispetto all'Inter, ma credo che si sia palesata una differenza, secondo me, non reale tra Inter e Roma. Sì, però Alfonso, quella era la partita con la L e con la P maiuscola, e averla persa così per l'Inter credo sia più che una sentenza. Saluto intanto Massimo Paganin, che oggi era Cagliari. Ciao, a seguire Massimo. Cagliari Inter 1-5. Ciao Max. Posso rendere pubbliche, Giovanni, alcune nostre lucubrazioni private fuori dai microfoni? Alcune discussioni che abbiamo fatto prima. Eravamo d'accordo sul fatto chi è? Adesso lo recuperiamo Paganin, che è caduto. No, che tolto Miranda per la squalifica rimediata dopo la munizione contro il Bologna, è crollato un po' il castello di carte, perché Miranda non è un giocatore che contempla il piano B nel disegno tattico di Pioli. Forse avrebbe dovuto fare i conti un po' prima. La partita con il Bologna era importante, perché l'Inter è condannata a vincere sempre, rischio, sì. E evitare magari di correre quel tipo di rischio, sì. Insomma, oggi tu dicevi anche l'amico da casa, l'Inter torna con la difesa 4, Perisic che fa l'ale, non il terzino, e i risultati si sono visti. Massimo, sì, che pensi? Cosa pensi di questa valutazione? Insomma, troppo diverse le due Inter. È vero che cambia anche l'avversario, la Roma non è il Cagliari, però certo, no. Sì, ormai la partita è andata, quella con la Roma. Credo che dal punto di vista tattico, forse giocarla con due terzini di ruolo sarebbe stata un po' diversa, nel senso che le catene di destra e di sinistra sono catene abbastanza forti della Roma, e di conseguenza l'Inter avrebbe potuto probabilmente incidere di più sulla partita. Però ripeto, sono scelte. Dopo la partita con la Juventus, dove aveva deciso di far giocare Medel, Miranda e Murillo, in conseguenza quasi con una difesa 3, aveva deciso di andare avanti per quella strada per un po' di gare. Con la Roma, diciamo così, c'è stata qualche difficoltà, soprattutto ad incidere sull'esterno. Questa è stata la difficoltà grande che ha avuto l'Inter, secondo me, nell'ultima partita, quella giocata in casa con la Roma. Oggi invece è stata un'altra Inter, una Inter che è andata in campo, voleva vincere la gara. Cagliari ha cercato di tenere testa, poi dopo poco, diciamo così, dopo la metà del primo tempo, la partita è finita. All'inizio del secondo tempo, poi con il terzo gol, si è conclusa. Posso esagerare dicendo che contro la Roma l'Inter ha regalato Perisic alla Roma, che è insieme a Icardi uno dei suoi migliori giocatori, proprio per questa ragione? Sì, diciamo di sì, nel senso che è chiaro che non avendo un supporto alle spalle, non potendo lavorare con la catena, no? Con un terzino alle spalle che ti dà un appoggio, diventa difficile. Di conseguenza Perisic ha dovuto fare tutta la fascia, si è un po' snaturato, se vogliamo, e di conseguenza ha perso in efficacia. Questo è quello che è accaduto, purtroppo succede. Aveva provato probabilmente Pioli a fare un qualche cosa di importante, pensando di poter vincere la partita. Poi ci sono stati anche degli errori individuali, quindi al di là di tutto, che hanno condizionato la gara. Però purtroppo succede, c'è ancora una piccola differenza tra l'Inter e la Roma in questo momento dal punto di vista dell'atteggiamento. Credo che comunque questo gap potrà essere colmato. L'Inter deve vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione, compresa quella in casa con il Napoli. Non può permettersi passi falsi, e l'unico problema è che, nonostante abbia corso molto nelle ultime domeniche, ha recuperato pochissimi punti su quelle che stavano davanti. Sì, guarda, i numeri te li do. Con Pioli in panchina ha fatto 34 punti in 15 giornate, dopo l'esonero di De Boer 37 in 16 giornate. per arrivare a 80, che ancora ad oggi è la quota che potrebbe assicurare il terzo posto, deve farne 29 su 33 nelle ultime 11 giornate. È vero che il calendario non è terribile, molti scontri diretti sono in casa, però stiamo parlando evidentemente di un'impresa complicata da immaginare. A proposito di Pioli e del suo terzo posto, cui sarebbe anche legato il futuro, oggi prima della partita Ausilio ha detto che è ridicolo ed è tema semplicemente per vendere i giornali. In pratica, la faccio in sintesi: mettere in discussione un allenatore che aveva fatto 9 vittorie in 10 partite prima di cadere contro la Roma. Dopo la partita col Cagliari, sempre ai microfoni di Premium, Max, ti faccio sentire che cosa ha risposto Pioli. Ma io ho sempre avuto il sostegno e il supporto di tutta la società e tutto il management. Siamo un gruppo che sta lavorando sapendo che possiamo costruire una buona base per poi ottenere dei risultati importanti in futuro, ma sapendo anche che c'è una stagione da fare nel miglior modo possibile, che dobbiamo correre tantissimo. Abbiamo ripreso a correre, adesso pensiamo una partita alla volta e poi da arrivare sino insieme. Poi dopo è chiaro che con la società si sta pensando al presente, ma si sta anche impostando il lavoro per il futuro. Oh, in pratica Pioli dice si sta impostando anche il futuro, invece io credo, oltre ad avere delle conferme, insomma, che qualche ragionamento si è fatto anche su altri nomi, e insomma credo che Pioli non si debba stupire di questo, se l'altro nome ad esempio è quello di Antonio Conte. Max, tu che pensiero hai? No, credo siano cose normali. Grandi società, logicamente, che hanno delle grandi ambizioni, ci può stare a costare dei nomi importanti come quello di Conte, che ha fatto benissimo negli ultimi anni, ha fatto bene in Italia, sta facendo benissimo al Chelsea. Di conseguenza credo sia più che normale per una società che vuole vincere, una società che ha delle ambizioni importanti. Quello che deve fare l'attuale allenatore dell'Inter è quello proprio di dimostrare quello che vale. Credo l'abbia fatto fino a questo momento, perché ha dato un'identità alla squadra, ha dato un gioco, ha fatto in modo che il gruppo si ricompattasse, e nella dimostrazione la partita di oggi, dove anche i sostituti, chi è entrato, chi ha giocato, Banega era fuori da molto tempo, oggi ha fatto nella seconda parte della gara ovviamente un'ottima al di là del gol, un'ottima partita, perché ha fatto un assist per Perisic veramente importante, quindi ha fatto una grandissima gara. Chi entra, chi subentra, chi ha la possibilità di giocare, che gioca anche poco, fa benissimo, ha recuperato con Dobbiá, perché non dimentichiamoci che Pioli è stato bravissimo a recuperare dal punto di vista mentale con Dobbiá, che con De Boer sembrava addirittura volesse andare via, dovesse andare via perché non voleva più starci. E di conseguenza credo che aggiungerei nella crescita di Condombia anche il fattore Gagliardini, perché la coppia funziona perfettamente. E prima non c'era, poi c'era. Però Giovanni e Massimo, allora secondo me all'Inter il futuro è tutto da decidere. Io sono certo di una cosa, che Suning, che ha le disponibilità e ne ha tante, l'anno prossimo voglia costruire una squadra da scudetto. Quindi è normale che ragionamenti sull'allenatore si faranno, ma indipendentemente quasi dal risultato dell'Inter di Pioli. Io credo che questo sia vero. Non so se sia meritato o meno, ma credo che sia così. No, Max, potrebbe essere ingiusto, potrebbe essere profondamente ingiusto, però credo anche che questa sia la realtà, questa è la mia opinione. Sì, potrebbe essere anche la mia, nel senso che è chiaro che una società come l'Inter punta a vincere e di conseguenza tenderà a prendere un allenatore magari che ha già vinto molto, perché vuole dare quel tipo di messaggio alla squadra o a tutto l'ambiente. Quindi ci può stare, ripeto, Pioli credo dovrà lavorare, perché la cosa più importante è che lui lavori per lui stesso, per cercare di una crescita personale e professionale importante, dopodiché vedrà quelli che sono i risultati finali, ma credo che la valutazione verrà fatta su quello che è la quotidianità, su quello che è il lavoro che lui riesce a fare, e poi dovrà riuscire a convincere eventualmente la proprietà che lui è l'uomo giusto per portare l'Inter ad ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale. Grazie Max. Grazie a voi, buon lavoro. Massimo. Grazie Massimo. Ciao. Paganin, adesso abbiamo una piccola pausa, vi do il menu 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 19, chiamate per prenotarvi di intervenire in diretta. Il menu dice che andremo a sentire cosa ne pensano i romanisti, che credo dopo aver visto oggi la Juventus fermata a Udine si mangino i gomiti. Dopo le 18 invece abbiamo delle novità sul closing Milan, e quindi cercheremo di fare punto. Se ne parla ancora? Anche perché siamo alla vigilia di una settimana che in teoria dovrebbe essere decisiva. Chi lo sa? Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. It starts with uno contro uno, Insigne la mette, corta e tesa, Trish Mertens, 2-0. Perotti all'indietro, Kevin Salah, Rene lo tocca, era tutto buono, clamorosissima palla gol per la Roma 47. Salah ancora, che la apre Perotti, la piazza sul fondo, Perotti la gira, deviazione, traversa, ma cosa sta succedendo? Reina, mamma mia che miracolo, che miracolo di Reina, finisce qui, finisce con il Napoli che vince per 2-1. La partita gol. Con la Lazio l'abbiamo dimenticata, oggi pensavamo solo al Napoli, non l'abbiamo fatto bene, non dobbiamo mettere scuse niente, non abbiamo fatto il nostro lavoro, loro sì, e per questo abbiamo perso. Oggi inizia per la Roma un altro campionato nel quale lo scudetto sarebbe la difesa del secondo posto, la Juventus è andata. Sì, bisogna essere realisti, loro sono bravi, hanno questi punti, hanno fatto questi punti qui, noi con questa sconfitta se loro vincessero prima era durissima, ora è quasi impossibile. Poi però loro, cioè quelli della Juve, oggi non hanno vinto e quindi oggi è, credo, la domenica dei rimpianti per i tifosi della Roma. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Eccoci. E saluto un grande tifoso della Roma come Paolo Liguori, dal quale voglio sapere qual è lo stato d'animo oggi dopo aver visto la Juve fermata a Udine. Ciao direttore. Posso prima cosa fare gli auguri posticipati a Pierluigi Pardo che era compiuto gli anni. Grazie. Si invecchia. Ormai un vecchio, ma siamo alle cose serie. Direttore. Sì. Qual è lo stato d'animo? Lo stato d'animo era ieri, non oggi, perché ieri io purtroppo, succede, non c'è niente da fare, Spalletti ha fatto un sacco di cose buone a Roma, non c'è dubbio, però questa settimana ha sbagliato le formazioni sia contro la Lazio che contro il Napoli. Allora, ha sbagliato la partita contro la Lazio perché voleva attaccare, distruggerli, eccetera, ha fatto una formazione d'attacco con Salah, non serviva, poteva mettere al posto di Salah Perotti e la partita contenerla e poi inchiodare lì a centrocampo e si vedeva al ritorno. Non l'ha fatto, ha sbagliato. E ha sbagliato la formazione contro il Napoli, all'opposto, facendo riposare Salah contro la Lazio, l'avrebbe potuto usare ieri, fresco, il Napoli gioca aperto dietro e sono bastati quei 20 minuti, quella mezz'ora del secondo tempo per farti vedere un'altra partita. E poi c'è una questione con la stessa sequenza con cui la Roma è arrivata negli ultimi 10 minuti, 5 minuti con il Napoli a Genova, noi siamo passati dal 2-1 al 3-2 e invece lì c'è stato un palo e una traversa, insomma, vabbè. Quelli però sono anche episodi che in una stagione insomma, stiamo parlando con il senno di poi, però io sono perfettamente d'accordo con Liguori. Anch'io sono perfettamente d'accordo e tutto nasce secondo me da una errata valutazione delle priorità della stagione, nel senso che la partita decisiva era quella col Napoli, quella con la Lazio era una partita dove la Roma doveva sicuramente provare a fare un gol, cercare di non perdere male come poi in realtà è successo, ma sicuramente era una partita poi giocabile eventualmente anche al ritorno, quindi questo ha fatto sì che ci sia stato, e poi quel discorso che fa il direttore è giusto, nel senso che il Napoli per caratteristiche è una squadra che ti concede profondità e quindi come sarà potrebbe essere molto buono, la Lazio invece è una squadra che gioca molto più chiusa, molto più compatta e quindi era più adatta alle caratteristiche, però io credo che attorno a quel paio di scelte di titolari si sia svoltata in negativo la stagione della Roma, poi credo che è abbastanza evidente che ci siano ancora margini di recupero, non per lo scudetto, ma diciamo, voglio dire, la Roma può ancora arrivare in seconda. No, i margini di recupero non ci sono, perché poi sapete che anche alla Juve può capitare la partita che sbaglia e che dovrebbe perdere, e però poi la Juve gli danno una punizione che non c'è. Stavamo aspettando, ragazzi, non continuiamo a far finta che sia tutto dal secondo posto in poi è tutto regolare. Per il primo posto il campionato è sempre un po', diciamo, oggi la punizione c'era, però la punizione non c'era, tocca prima la palla. Però ci poteva stare un rigore per la Juve prima del primo tempo. C'era invece quel rigore su Albiol di Napoli, però come voi, poi anche voi dite non dite perché siamo tutti un po' presi. No, ma noi l'abbiamo detto che il rigore di Albiol c'era. Sapete che è stato detto. Siccome c'erano tutti e sei. sapete che è stato detto che le immagini sono fornite dalla Lega da Infront? Sì, non è vero, le immagini sono fornite dalla Juve, allo Juventus sì, Stadium, le immagini sono anche della Juve. Anche la Roma fa le sue immagini all'Olimpico, sì. No, ma quelle immagini non le ha date mai la Juventus. Ma non è vero, questa cosa però, no, però un momento, facciamo una cosa seria. Questa cosa che dico io, questa, vi allora, che la Juventus produca le immagini è vero, così come altri 5 club italiani. Che la Juve non rilasci le immagini va a offendere il lavoro dei professionisti che sono lì, e perdonami direttore, questa cosa non te la posso concedere, non con me che conduco questa trasmissione. Dopodiché sulle opinioni ci si diverte e non c'è nessun problema, ci si divide. Fissa tu il giurì e qualcuno mi smentisca che le immagini. Ma ci sono sei club che forniscono le squadre, che forniscono le immagini. Ci gioco la mia parola, la mia professionalità, però ci deve essere qualcuno che dice, non è vero, allora, abbiamo tutte le immagini. Giusto per allora, posizione, io, direttore, io e questa trasmissione si dissociano da quello che tu dici, perché significa che esiste. Pare, no, ma non c'è problema. Non è vero. Ma non me lo puoi dire che non è vero, perché quello che dico io ti dico che non è vero. Vero, se no non lo direi. Ci sono tanti e tanti che provano a querelare, non ci riescono, la prendono in saccoccia, perché quello che dico io è vero, provato, documentato. Poi ci sono le trasmissioni che non dicono, va bene, non dite, però smentite se potete, ma non smentite mai una cosa su cui io mi sono informato e documentato. Guarda, vabbè. Se no lo fate su questa cosa abbiamo informazioni differenti, mettiamola dimostrate così. Dimostrate che sono un bugiardo. Se non lo dimostrate. No, ma senza darti del bugiardo, direttore, però perdonami, si può anche dire che la cosa sta diversa. Perché mi sono beccato di persone che dicono questa cosa la dici solo te, la dico solo io, sì, la dico solo io, il che se è falso è un difetto mio. Ma se è vero è un difetto di tutti gli altri che non la dicono. E siamo a posto. Ma scusa direttore, ma la regia non è di Infront? No, cioè... no, attenzione, le immagini non sono state date della Lega. L'altra volta. No, ma guarda perché questo la regia era di Giorgio Galli che è una Galli che è il più bravo regista che c'è, forse il più bravo che c'è, ma quelle immagini del replay devono essere fornite per poterle ridare. È stata fornita solo l'immagine frontale. Questo lo sanno tutti. A me risulta una cosa diversa. E in televisione Mazzocchi ha sostenuto che Infront non aveva fornito le immagini alla Rai. Ha sostenuto il falso, perché Giorgio Galli le immagini che ha avute le ha date, ma ha avuto solo quella. Poi possiamo fare la trasmissione con Giorgio Galli, Ma possiamo farla con chi vogliamo e non c'è nessun problema, ma veramente non c'è nessun problema. Dopodiché non c'è nessun problema. Non è vero che non c'è nessun problema, non è vero, non è vero. Si fa finta ancora di discutere oggi sulla punizione. Ma non ho capito, quindi che siamo pagati tutti dalla Juve, non lo so, io non riesco a capire, perdonami. Tutti i video comunque della della nostra regia, i video, la moviola, l'ingrandimento, è stata ha toccato prima il pallone. La punizione tu dici di oggi a Udine. Vabbè, ma De Neri si è arrabbiato, è un episodio a moviola, su questo discutiamo senza problemi. Non è che si è arrabbiato, le cose stanno così. Però la lente di Mediaset oggi ha discusso anche su una trattenuta su Dybala. Oggi secondo me la Juve ha giocato male e ha meritato di non vincere, fermiamoci qui. C'era anche un rigore su Dybala a Torino nel primo tempo, cioè voglio dire che ci potesse essere rigore su Albiol, siamo d'accordo. No, però direttore, secondo me non è che ci sono soltanto torti da una parte, c'è un disegno. Io questo discorso del disegno, scusami, lo sai, ti voglio bene, siamo amici. Ma lo so, però lo il concetto, lo so, il concetto del disegno nel disegno. La guardia, ma non siamo nel disegno. Direttore, io ma che non siamo sto nel disegno, disegno non ci sto, sto fuori dal disegno. Allora parlo, mi assumo delle responsabilità, mi prendo un sacco di improperi, di insulti, però non importa perché io quando dico le cose non devo avere nessun diritto, nessun però, giocatore scusami, a carico, nel primo tempo, capito? Ma questo nessuno di noi ha affari con la Juve, vabbè, nel primo tutto tempo il mondo delle televisioni ce l'ha per forza. Questa su è una radio, non diciamo delle cose che fanno venire i capelli bianchi a chi è a casa. Faccio la televisione da 30 anni. Scusa, non è vero, cioè, è più brutto ancora che dire sei un bugiardo. È meglio dire sei un bugiardo che non è vero, perché tutti sanno che è vero, che il lavoro dipende moltissimo dal rapporto con le società e che le società, alcune puntano i piedi. Sì, voglio dire, sono anche la Roma, l'Inter, il Milan. Certo, anche la Roma, l'Inter, in quel primo tempo. in quel primo tempo di Juve-Napoli? C'è un rigore su Dybala che non viene dato? C'è un gol in sospetto fuori gioco della Cagliacon? Sì, ma il rigore su Albiol ne provoca un altro. Sì, ma di fatto quello è un errore, l'abbiamo detto in tutte le lingue che conosciamo. Ma lasciamo stare quello. Io l'ho detto per inciso, non mi importa. A me non importa, no? Non voglio fare una polemica a vita, a me non importa. Se ci fosse un disegno, come dici tu, ma no, ma la frase non è che io sostengo il disegno, no? Non è che io sostengo il disegno, io sono stato interpellato con la seguente frase: pensi però che sia ancora aperta? E io vi ho risposto: non è mai aperto il primo non posto, non è mai aperto perché si gioca solo dietro secondo in poi, ok? Nel campionato italiano il primo posto non è a disposizione di tutti, ok? Abbiamo questa è la mia idea, poi voi vi direte se questo non è per meriti della Juve, sì. Non è anche per meriti naturalmente della Juve. Per la superiorità tecnica della società, dei rapporti che c'ha, del fatto che tiene tutti i giornalisti alla catena, che tiene tutte le televisioni alla catena, fate la somma, ma il totale vi dà questo, che il primo posto che era la stessa cosa che si diceva del Milan di Berlusconi, che in più prima aveva anche una televisione, Milan, darsi, per carità, è sempre più forte che ha la catena tutti. Può darsi che c'era qualche voce libera che si levava anche contro il Milan di Berlusconi, può darsi e ben vengano queste voci libere, solo questo dico, ma il fatto che io oggi lo dico isolatamente su questa questione mi lascia isolato, mi lascia stato denigrato e insultato, ma in fondo non me ne frega niente perché io quello che vedo dico, quello che penso dico, quello che so dico, e quello che so però ricordatevi che lo so e lo potrei difendere in qualsiasi senso. Va bene, adesso noi ci dobbiamo fermare, direttore, ti ringrazio intanto per aver partecipato, abbiamo il traffico. Ho un'idea ben precisa del potere, ho un'idea ben precisa di come funziona tutto il mondo, ho un'idea ben precisa del fatto che l'unico campionato su cui si scommette nel mondo e si scommette tanto è un campionato che non ha una federazione degli arbitri autonoma, ma una federazione subordinata alla federazione calcio e per di più alla Lega e quindi alle società, e gli arbitri sono pagati alla fine con i soldi della società ed è l'unico campionato nel mondo che è così, perché l'NBA italiana. Ma che ci sia qualche problematica è stato sottolineato, è sempre stato studiato. Noi però adesso siamo in ritardo di 5 minuti sul traffico, ci mandano via veramente. Io ringrazio Paolo Liguori, grazie direttore. Ringrazio il direttore di essere intervenuto, anche se non sempre siamo d'accordo. Lo ringraziamo. Va bene, grazie direttore, traffico, torniamo subito. Convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Allora, Pierino, tutto bene? Sì, sono qua, stavo sentendo. Questo è un posto aperto dove chi ha un'opinione può esprimerla, però noi abbiamo anche il diritto e il dovere di dire come la pensiamo noi e di esprimere quelle che sono le nostre conoscenze. Con questo perdonami, lo dico perché stanno arrivando tanti messaggi. Il direttore Liguori, noi lo invitiamo ancora, non è che dobbiamo farlo tacere, no, se uno ha un'opinione lo facciamo parlare, però se noi ce l'abbiamo diversa lo diciamo, punto. Assolutamente. Questo perché sto rispondendo, eh. No, ma poi toccherà anche a te domani a controcampo. Sono rimasto al 90esimo minuto. No, io però l'idea che siamo tutti sotto catena, francamente, a me sembra assurda. Io penso che si è discusso. Anzi, il principale capo di imputazione che viene rivolto alla stampa, buona parte della stampa, da parte degli juventini, che quando ci sono delle situazioni arbitrali favorevoli alla Juve, se ne parli di più. Io credo che la forza della Juve e delle grandi squadre in generale, questo discorso vale per le grandi squadre, per tutte le grandi squadre, sia che fanno molto notizia. Quindi sicuramente quando ci sono delle situazioni favorevoli o quando ci sono delle situazioni contrarie se ne parla molto. Quindi da un lato gli juventini quando succedono queste cose si sentono nell'occhio del ciclone, dall'altro gli altri quando succedono queste situazioni si sentono invece che se ne parla troppo poco. Ma è tutto qui, cioè io oggi ho commentato la partita, ho detto che secondo me non era rigore quello di Samir, perché il pallone lo prende prima col piede, ho detto che secondo me era fallo quello di Perizza, perché questo è ciò che ho visto. Penso che Juve-Napoli l'abbiamo analizzata mille volte in questi giorni. Nel primo tempo c'è stata una partita, sì, ma non rifacciamo la moviola di Juve-Napoli, però voglio dire, capito, però capisci. L'abbiamo detto, tutti l'hanno detto, fallo di Albiol era su rigore, non avrebbe generato quello di Dybala. Nel primo tempo c'era fallo su Dybala. Chiudiamo qui. Allora, dai, abbiamo due minuti, io voglio fare Ludovico e Alberto che ci stanno aspettando. Ludovico dalla provincia di Taranto, Ludovico, dai. Era voi. Aspetta, si sente malissimo. Alberto da Milano, Alberto. Sì, buongiorno. Eccoci, dai. Buongiorno. Ma io, ragazzi, meno male che avete fatto i commenti che avete fatto adesso quando siamo rientrati dal traffico, perché io mi stupisco che diate ancora voce a elementi che sono obnubilati dall'odio verso la Juventus. Beh, insomma, Alberto, te l'abbiamo spiegato, ragazzi, quando siamo rientrato, eh? Massimo, sì, poi, esatto, poi Alberto, cioè, possiamo dire anche una cosa molto laica. Alberto, possiamo dire anche una cosa molto laica. Ognuno sostiene il suo personaggio, no? Sì, mi rendo conto, ma ragazzi, ma non se ne può veramente più dal bavaglio. Ma lui, la sua squadra, 12 rigori a favore ha avuto fino adesso. E ha il coraggio di parlare, sì, ma non è che li arbitri ha rubati, i 12 rigori la Roma. Beh, i primi, ragazzi, gli ultimi sono stati netti, effettivamente. I primi a inizio campionato ne hanno fatti 3-4 consecutivi che erano ridicoli, ridicoli. Ma io non voglio diventare come lui, perché non voglio mettermi sul suo stesso livello. Ma è vergognoso che un elemento del genere faccia 20 minuti di filippica di odio puro. Allora, ci fermiamo qui. Grazie Alberto. Pier, ti riaggancio dopo il GR delle 18 per qualche minuto, che vediamo poi di dare un senso alla giornata. Dopo il GR delle 18, alle 18.30, parliamo del closing del Milan, perché c'è, insomma, da raccontare cosa sta succedendo in queste ore. GR, torniamo subito. Io non sto facendo nessuna fatica, la squadra non sta facendo nessuna fatica, perché la società è totalmente adempiente. Funziona la cucina a Milanello con i cuochi, funziona la lavanderia, il magazzino funziona, la segreteria è efficiente, il management c'è, volgarmente i stipendi vengono pagati a tutti, i giardinieri aggiustano il campo. Noi non abbiamo nessuna difficoltà, non ho nessun tipo di disagio. Tutti convocati. Ricominciamo, tutti ai vostri posti. Tutti convocati. 800 24 00 24. Abbiamo ancora il nostro carissimo Luigi Pardo per qualche minuto. Eccoci. Tra due minuti vediamo anche l'aggiornamento su come sta andando la schedina. Però aspettate, dovete pazientare ancora prima del traffico. Poi vediamo il parziale della schedina. Ci sono Luigi da Torino e Michele da Parma. Ci sono un miliardo di messaggi più o meno sulla questione TV, immagini, Juventus e direttore Liguori. Rispondo solo a uno per tutti: avete fatto fare un monologo di odio e diffamazione nei confronti della Juve. Non abbiamo fatto fare nessun monologo, ognuno ha le sue opinioni, noi abbiamo espresso le nostre e voi fatevi le vostre da casa. Luigi da Torino. Luigi, buonasera a voi. Eccoci, dai. Volevo dire la mia Pioli, perché sì, secondo me l'Inter ci dovrebbe pensare bene nell'eventualità di cambiare allenatore, qualunque, diciamo, qualunque risultato di questo passo. Credo che Pioli comunque arriverà a un buon risultato, è riuscito ad amalgamare un ambiente che ha trovato in condizioni non facili, ha avuto il coraggio di schierare titolare un nuovo acquisto giovane come Gagliardini, con i risultati che vediamo, ha recuperato dei giocatori, insomma, quello che che sta facendo lo si vede. Anche perché penso a errori del passato, secondo me, che ha fatto l'Inter con allenatori che ha mandato via. Penso a Simoni, penso a Zaccheroni. Io Zaccheroni l'avrei tenuto solo per il fatto che in un campionato è riuscito a vincere con la Juve sia a Torino che a Milano. E quindi, secondo me, l'Inter farebbe bene a tenerlo. Guardi, un uomo come Pioli, vale il discorso, vale il discorso di cui sopra. Può essere, vale il discorso di cui sopra. Scusi se ne interrompo. Vale il discorso di cui sopra. Può essere, è corretto. Pioli sta facendo un eccellente lavoro, io dico che la sua posizione non dipende dai risultati ma dall'ambizione della società, e quindi potrebbe esserci anche l'ingiustizia di uno che fa un eccellente lavoro, però un club che ha fretta di primeggiare potrebbe scegliere altre strade. Questo è quello che penso. Ha perso tempo con la fretta l'Inter, però. Beh, no, ma è un fatto di dimensione. Sì, è un fatto di dimensione. Di dimensione. Pioli, Pioli esatto. È una dimensione importante, ovviamente. Io credo che questa stagione comunque andrà a finire, gli farà bene, nel senso che comunque sta dimostrando in un grande club di poter fare cose importanti, positive. È arrivato tardi, però la sua mano si è vista, no? Ha razionalizzato nettamente le cose. Probabilmente c'è il rimpianto, se fosse arrivato un pochino prima adesso l'Inter avrebbe una situazione di classifica migliore, su questo non ci sono dubbi, per cui comunque andrà a finire, poi Pioli uscirà bene da questa stagione. Certo, se l'Inter spenderà tantissimi soldi, veramente l'investimento sarà così clamoroso, è possibile anche un investimento super su un allenatore di un livello ancora più alto ad oggi di quello di Pioli. Poi noi auguriamo a Pioli di diventare Ferguson, però è ovvio che se si fa il nome di Conte, se si fanno questi nomi qui, è perché si potrebbe andare a cercare un tipo di allenatore veramente top. Pioli sta crescendo e sta diventando un allenatore top. Sono d'accordo con te che sarebbe un'ingiustizia, perché Pioli sta facendo bene, però sappiamo che la gratitudine nel calcio, pensa all'Ester, no, la gratitudine nel calcio non c'è. Si decide a seconda di quello che ti serve in quel momento. Tra l'altro io ha citato prima Zaccheroni, parentesi Inter, se non ricordo male Zaccheroni fu poi alla fine mandato a casa contro il parere anche di Facchetti, di parte della società, ma perché c'era l'idea con Mancini di aprire un ciclo diverso e facendo un salto di qualità, quindi certo. Alle volte si fanno anche queste scelte. Michele da Parma, Michele. Buonasera, io volevo fare un intervento per Mimmo Liguori, perché sì. Io penso che abbia un filo esagerato, però un fondo di verità credo che ci sia. Ma su cosa, Michele? Allora, mettiamoci d'accordo, se stai parlando del fischio oggi di D'Amato sulla punizione della moviola, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se la cosa è c'è chi in maniera volontaria nasconde le immagini, lo fa, se permetti, non è una questione di opinione. Il mio era un discorso generale, in generale. Sì. Praticamente il solito discorso, che gli episodi dubbi vengono a favore della Juve. Io credo che in tutta Europa la Juventus sia l'unica squadra che ha questo odio da parte di tutte le altre tifoserie. Non vedo in Inghilterra un odio per il Chelsea o in Spagna un odio per il Real. Secondo me, cioè, questo fa male al calcio. Dico, la polemica ci sta, perché gli altri giustamente. Allora, l'altro giorno Mundo Deportivo aveva le prime 5 pagine dedicate ai favori arbitrali al Real Madrid. 5 pagine, cinque, tutte intere. Sì, magari non stiamo a guardarle più di tanto. Ma non è, io guardate, penso dico soltanto questo, non voglio fare polemiche. Io dico soltanto che fa male al calcio questo, si perde interesse. Cioè, lo sfottò ci sta, l'arbitro può sbagliare, come sbaglia attaccante, come sbaglia un portiere, però un minimo di controllo ci vorrebbe, perché secondo me si sta perdendo proprio l'interesse per il calcio, perché praticamente ormai sono 5 anni, la Juventus sicuramente la più forte, la squadra da battere. Ragazzi, ma la Juve ha fatto 100, quanti punti ha fatto più in 5 campionati e 3/4 rispetto a tutte le altre? Cioè, io trovo che oggi questo dibattito sia inattuale. Però. No, io sono d'accordo con te, io penso che la differenza degli ultimi anni sta nel fatto che la Juve ha costruito con un progetto societario di un certo tipo, con lo stadio di proprietà, ha costruito una squadra e con delle scelte tecniche azzeccate, una squadra che è più forte delle altre. Trovo frustrante che Roma e Napoli, che sono due squadre che gli ultimi anni hanno fatto benissimo e che meriterebbero un trofeo, qualcosa di importante, meriterebbero per quello che hanno fatto in questi anni di aver vinto un campionato uno per uno, perché sicuramente sono cresciute tanto, però secondo me, e lo dimostrano anche le vicende di questo campionato, hanno qualcosa in meno della Juve e c'è poco da fare, non sono gli arbitraggi, io francamente faccio fatica. Poi quando c'è stato da fare la moviola, penso a Torino-Juve dell'anno scorso, ho fatto la telecronaca di Torino-Juve l'anno scorso, indubbiamente è una partita nella quale si può discutere di 1000 episodi, ma teorizzare l'idea che gli arbitri siano sempre dalla parte della Juve, che ci sia il complotto e che i giornalisti sono tutti degli schiavi della Juve, io non ci sto. Io oggi ho commentato una partita, 2 episodi, uno l'ho visto in un modo, uno l'ho visto in un altro, magari mi sono sbagliato, ma per me non è il rigore di Samir, non è che l'ho detto senza se e senza ma, dopo averlo rivisto nel replay, ho detto questo non è rigore, questo è involontario, e allora che sono? Sono uno schiavo dell'Udinese? Mi dai soldi Pozzo? Cioè, è un ragionamento assurdo, è una cosa che io veramente faccio fatica a capire. Poi, detto questo, dire che abbiamo le catene mi sembra tranquillo. Ma no, ma poi voglio dire che in tutto il mondo esistano, non mi ricordo chi proprio in radio qualche giorno fa lo diceva, in maniera candida esista una sudditanza normale, perché se incontriamo il Presidente della Repubblica siamo certamente più emozionati che se incontriamo un impiegato. Lo diceva Bruno Pizzul. Bruno Pizzul, esatto, lo diceva Bruno Pizzul. Questa è la cosa più ovvia del mondo, ma questo vale a ogni livello, e non è che in Italia ci sia una sola società forte. La Juve probabilmente negli ultimi anni è la più forte di tutte, ma esistono altre società, non è che esistono soltanto, non esiste soltanto la Juve. Cioè, se guardiamo nella storia del calcio, guardiamo 100 anni, probabilmente le grandi hanno avuto qualche favore arbitrale in più delle piccole, su questo non c'è dubbio. Cosa che capita qui, Pierre, non solo in Italia, ma più o meno in tutto il mondo. Ma certo, allora, abbiamo il traffico, ti devo salutare. Ciao Pierluigi. Ti saluto, Pierre, dicendoti che al momento, ma non è ancora definitivo, sei in vantaggio 5-4. E che cosa manca? Manca Bologna-Lazio. Manca Bologna-Lazio, dove io ho un pareggio e tu hai il 2. Hai la vittoria della Lazio, quindi la differenza la sta facendo Atalanta-Fiorentina. Quindi che sicumera parla. Quindi 6-4. Ci rivediamo domani. Ci rivediamo domani. Ciao Piero, alla prossima. Ciao. Tutti convocati. Tutti convocati. Well, it's midnight, damn right, we're wound up too tight. Oggi inizia per la Roma un altro campionato nel quale lo scudetto sarebbe la difesa del secondo posto? La Juventus è andata? Sì, bisogna essere realisti, loro sono bravi, hanno questi punti, hanno fatto questi punti qui. Noi con questa sconfitta, se loro vincessero, prima era durissima, ora è quasi impossibile. Un punto importante, perché ci permette, come ho detto prima, di guadagnare un punto sulla Roma. Anche se avessimo vinto, non è che il campionato fosse chiuso, mancano ancora 11 partite e bisogna fare tante vittorie. Nell'essere più precisi nella gestione, quindi queste sono cose tecniche che non ti puoi permettere in altre partite, in partite dove il livello è molto vicino e equilibrato, quindi queste sono le situazioni che ci devono vedere in crescita se vogliamo davvero pensare da qua alla fine di provare a vincere tante partite, è quello che vogliamo fare. A me non piace essere ruffiano, mi piace essere pratico. Il mio sogno è arrivare in Europa League, possibilmente un punto davanti all'Inter, se non di più. Ma mi spiacerebbe molto arrivare un punto davanti all'Inter e non entrare nessuna delle due in Europa. Riassunto della 27esima giornata, fin qui manca la voce di Gasperini, fermato sul pareggio a Bergamo dall'Atalanta. Saluto Oscar Damiani. Damiani, buonasera, grazie. Buonasera a voi gli ascoltatori. Oh, Juve più 8, tutti ci attendavamo il più 10 che avrebbe messo il sigillo sullo scudetto, non è arrivato, opinione diffusa, c'è comunque poco da ragionare ancora in chiave campionato. Non so come la pensi. Io non capisco cosa cambia tra il più 8 e il più 10. Ci sono due punti in più, sì, per la palisse, sì. No, difatti, no, ma ovviamente non cambia granché, per il semplice motivo che la Juve è la squadra più forte, quindi al di là dei punti conta l'organico che ha la Juve rispetto a Roma e Napoli, che hanno sempre qualche passaggio a vuoto che la Juve non ha, e questa è la differenza poi degli 8 punti, quindi seppure Napoli e Roma giochino un bellissimo calcio, la Juve secondo me è più squadra, è più forte in tutti i reparti ed è quindi giustamente, logicamente avanti in classifica. Quale delle due tra Roma e Napoli, se può avere qualche rimpianto, deve averne di più? Nel non essere magari un po' più vicina alla Juve? Secondo me, francamente, la Roma. La Roma, perché la Roma ha avuto molte occasioni, ha perso molti punti per strada. Basti pensare alle ultime partite, voglio dire, e quindi la Roma poteva fare qualcosa in più, poteva essere più vicino alla Juventus. Il Napoli, la Coppa Campioni, secondo me la Champions League gli ha tolto anche qualcosa, era molto concentrato anche sull'Europa, però secondo me come organico la Roma è superiore al Napoli, anche se il Napoli gioca un calcio eccellente perché Sarri è molto bravo. Ma Spalletti ha sbagliato qualcosa nella gestione di questa settimana? No, ne parlavamo prima anche con Pierluigi Pardo. Ha ragione, insomma, quello che ha detto Spalletti è sacrosanto, dice quando si sbaglia poi è colpa mia, ma io le scelte le devo fare, quelli che parlano dopo fa troppo facile. Dire che Salah doveva giocare dall'inizio ovviamente è semplice, facile, però lui ha pensato che magari durante la partita gli poteva risolvere, e invece il problema non è stato tanto l'attacco, è stata la difesa. Ecco, forse ha giocato con quattro stopper e lì magari si poteva pensare a una squadra diversa in fase difensiva, anche se il Napoli ha giocato con tre piccoli davanti. Io credo che la miglior difesa della Roma sia la difesa a tre, per il semplice motivo che Fazio non può giocare una difesa a quattro. È stato considerato uno dei migliori difensori, però in queste ultime due partite è stato il peggiore in campo della Roma, per il semplice motivo che se giochi a quattro ti danno delle palle in profondità, lui se si deve girare e ci vuole no, troppo tempo. Invece una difesa a tre che non ha bisogno di fare quel tipo di gioco, con due stopper e lui che imposta il gioco dove è bravissimo ed è fortissimo di testa, ecco, forse l'unica cosa che Spalletti l'ha vista con la difesa a 4, io avrei continuato con i tre difensori centrali. Sì, sì, questo non c'è dubbio, è chiaro che stiamo parlando col senno di poi, lo facevamo anche prima, io Salah l'avrei fatto giocare dall'inizio, anche perché onestamente, Oscar, ci sono alcuni giocatori che sono irrinunciabili per le rispettive squadre. Sì, uno di questi è Salah per la Roma, sì, sì. Perisic per l'Inter, e qui abbiamo avviato un lungo discorso. Perisic è stato in qualche modo regalato alla Roma, perché ne parlavamo con Paganin, in quella fascia ha dovuto partire da troppo lontano, quasi fare il terzino. Insomma, ci sono dei giocatori di cui non puoi fare a meno, e uno di questi è Salah. Tutti vanno messi nelle migliori condizioni di rendere, perché poi dopo ovviamente se tu fai fare tutta la fascia a Perisic lo perdi davanti, è bravo. Quindi invece oggi ne ha messi lo devi sfruttare dove ha le qualità migliori, che è quello del dribbling, del tiro, dell'inserimento. Però ripeto, fare l'allenatore è difficile, quindi non mi sento di accusare qualcuno, dico solo che così dopo, viste le caratteristiche, forse qualcosa in meglio si poteva fare. Il Napoli ha qualche chance di fare la rimontona con Real Madrid? Dai, sbilanciatevi. Io penso di no, perché il motivo semplice è che il Napoli è una squadra fortissima, però il Real Madrid anche a Napoli secondo me farà gol. Vedo difficile che il Napoli possa fare 4 gol poi dopo, ecco. Certo, si potrebbe pensare a un 3-1 ad arrivare ai supplementari, ecco, quello sarebbe il massimo. Però io credo che il Real Madrid è una squadra talmente forte che poi dopo con un vantaggio così difficilmente il Napoli potrà ribaltare la situazione. Mi auguro di vedere una gran bella partita, questo e anch'io. Un Napoli spregiudicato come è stato nei primi 20 minuti mezz'ora all'Olimpico, dove ovviamente psicologicamente a quel punto il Napoli non si rischiava più niente, e dietro ha dovuto giocare il suo calcio. Una splendida notte da vivere, Oscar. Una splendida notte da vivere per Napoli, per i napoletani, per i giocatori stessi, per Sarri, per tutte queste cose. Però permettimi di dire che, insomma, se facciamo un sillogismo, il Real ne ha presi ad esempio 2 a Villarreal, poi ha rimontato 3-2. È un periodo in cui prende gol con enorme, 10 gol nelle ultime 5 partite, sì, con enorme facilità. Bisogna vedere quanti ne fa la difesa del Napoli. Li fa anche. Ci vorrà un grande centrocampo che sappia difendere davanti alla difesa, che sappia chiudere gli spazi, perché sennò diventerà difficile, perché Napoli sarà costretto ad attaccare, quindi lascerà comunque degli spazi a giocatori come Ronaldo, Benzema, e quindi lì sono giocatori questi che sono micidiali, insomma. Però da ex napoletano mi auguro che prima di tutto sia una grande partita, un grande spettacolo, e poi speriamo veramente che possa fare anche un risultato clamoroso. Una speranzella la possiamo coltivare, dai, sì, no, almeno sì. Un 15-20% qualcosa. No, anche un 30. Voglio dire, il Napoli non è che è battuto, non è che non ha speranze, che non ce la può fare. Su questo assolutamente no. Ci vorrà anche un po' di fortuna, perché a volte in una partita anche un episodio può cambiare le sorti di una gara. Senti, ma visto Roghi ieri è contro la Juve, un po' di ragione, un fondamento di ragione, ce l'aveva De Laurentiis nell'arrabbiarsi a Madrid su questa cosa qui? Adesso non so se lui si riferisse a Roghi, certamente Roghi è un giocatore di qualità, lo ha dimostrato facendo un'ottima gara. Il presidente, ma non è che il presidente non possa dire certe cose, forse era il modo con cui le ha dette che forse poteva essere diversa. Sì, modo e luogo. Esatto. Modo e luogo, magari non davanti a un microfono, ma a cena tranquilli, poi dici quello che vuoi, no, e magari non esce. L'importante è che c'è stata questa cena, l'ho letto dal presidente e l'allenatore, quindi questo è veramente una cosa positiva, importante per tutto il gruppo, in vista del Real Madrid. Anche perché era una situazione paradossale, dai. Torni da Madrid con la partita ancora aperta, stai facendo comunque una stagione notevole e 17 giorni di gelo tra presidente e allenatore, è davvero una situazione difficile da spiegare. Grazie a Oscar Damiani. Ciao Oscar, grazie. A voi, buona serata. Buonasera. Grazie ad Oscar Damiani. 800 24 00 24, dopo il meteo alle 18.30 abbiamo le notizie sul closing del Milan. Prima però ci sono Luigi da Torino ed Enrico da Prato. Luigi, salve, grazie, buonasera, ecco. Ciao, grazie per la comprocazione, direttore, buonasera. Senta, due cose. No, direttore no, ma va bene lo stesso. Va bene il direttore, va bene, glielo auguro quanto prima almeno. Senta, due cose velocissime, in merito un attimo alla partita Juventus-Napoli, sì, sul rigore di Quadrato, una semplice piccola osservazione, ma secondo lei se Reina avesse bloccato quel pallone, che sarebbe stata, caricare sul portiere o rigore? No, io penso che se Reina avesse bloccato il pallone sarebbe stato poi magari anche carica sul portiere. Però io devo essere sincero, allora lo dico, che così insomma esprimo il mio pensiero. L'azione è viziata dal fatto che 10 secondi prima, secondo me, c'è il rigore su Albiol. Quindi stiamo parlando di una cosa che non doveva esserci, ma non è un problema, perché poi nello sviluppo avviene il contropiede. Io credo che è vero che Reina striscia il pallone, ma siccome poi il pallone in realtà geograficamente rimane nella disponibilità e in gioco su Quadrado, in realtà poi il fischio dopo ci possa stare, può essere calcio di rigore, e questo è quello che penso, punto. Lo penso anch'io. Poi prego Luigi. Poi andiamo avanti. È un'opinione, ce ne sono anche di differenti, non è un problema. Io la vedo diversamente, comunque va bene così. Un'altra cosa volevo dire, noi ci sì, sento malissimo, chiedo no, scusa. No, prego, dai. Ah, no, dicevo, a noi martedì non ci interessa di fare 4 gol, ma ce ne bastano 2. E poi in merito a una risposta al direttore Liguori su Roma-Napoli, che ha enfatizzato tanto i miracoli di Reina, ma se ne è dimenticato uno del suo portiere su Rog. Magari se avesse segnato avremmo parlato di tutta l'altra partita. Roma-Napoli è stata due partite in uno. La prima è durata 80 minuti, la seconda 10. Però Napoli ha dominato la prima. Napoli ha dominato la prima, la Roma negli ultimi 10 avrebbe potuto farne 3, è la verità, insomma, ma alla fine il risultato fotografa, credo, il fatto che la prima partita è durata 80 minuti, quella dominata dal Napoli, e la seconda soltanto 10. Enrico da Prato. Buonasera, eccoci. Buonasera. Io sto tornando da Udine, sono stato a vedere la partita e ho visto i tifosi juventini, una piccola Juventus e una grande Udinese, mi sarei aspettato il contrario. Anch'io. Questo per rispondere al signor Liguori, perché insomma, che sicuramente sarà stato uno di quelli che, insomma, quando ha letto la formazione e le dichiarazioni di Del Neri, avrà pensato scansamo, se no, come dicono loro. Cioè, sinceramente, ora queste cose stanno diventando un po' stucchevoli. Cioè, e questo l'abbiamo detto, e su siamo trovati d'accordo tutti compreso il direttore di Tutto Sport, compreso il sottoscritto, Giovanni Capuano, eccetera. Stucchevoli, non tanto lo scansarsi, l'intervento... Lascia stare dire. No, noi tifosi, cioè, ti dico una cosa, mi permetta, cioè, quando siamo andati in Serie B per Calciopoli, io ho detto bene, si va in Serie B, ci si ripulisce, è meglio. Dopo 10 anni siamo ancora a parlare di grande vecchio, giornalisti in bavaglia, cioè, non se ne può più. A noi lo dice. Parte lì hai perfettamente ragione. A noi lo dice. E mi sembra che l'abbiamo espresso. Comunque, grazie Enrico, torniamo subito e parliamo del closing del Milan, di tante altre cose. Tutti convocati. Tutti convocati. Un Una settimana intensa come tutte, poi ci sono stati questi due accadimenti, ma si è sempre lavorato con la stessa voglia e con lo stesso impegno e attendavamo delle indicazioni da Fininvest e continuiamo ad attendere, vediamo, noi fino a che saremo qui continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Io non sto facendo nessuna fatica, la squadra non sta facendo nessuna fatica perché la società è totalmente adempiente. Funziona la cucina a Milanello con i cuochi, funziona la lavanderia, il magazzino funziona, la segreteria è efficiente, il management c'è, volgarmente i stipendi vengono pagati a tutti, i giardinieri aggiustano il campo. Noi non abbiamo nessuna difficoltà, non ho nessun tipo di disagio. Noi abbiamo lavorato dal primo giorno isolandoci, è stato bravissimo il mister a farlo, e veniamo da quattro risultati positivi, quindi vogliamo continuare, da tre vittorie e un pareggio, quindi vogliamo continuare a fare il risultato positivo. I tifosi si tranquillizzano con i risultati, quindi noi cerchiamo di fare risultati, giochiamo ogni partita per vincerla. Ovviamente un po' di curiosità c'è da parte nostra, abbiamo seguito le vicende, siamo vicino alle persone che sono interessate a questo. Noi non abbiamo nessun alibi, assolutamente nessun alibi, e qualsiasi siano i risultati futuri del Milan. Che noi abbiamo un po' di curiosità, come Montella. Ma io tra secolo, addirittura non hanno ancora tagliato il gas a Milanello, funziona la cucina. Funziona tutto. Marco Belinazzo, ciao Marco. Ciao. Eccomi, ciao, funziona buonasera tutto, ragazzi. A Milanello, il giardiniere va, il cuoco fa il cuoco. Si presenta tutti i giorni, il cuoco va a cucinare, la bolletta della luce è stata pagata, incredibile. Beh, voi, come dire, ironizzate giustamente. No. Ma ci sono state realtà e passaggi di società in cui sì, mancavano le casacche per allenarsi e di palloni. Non sono stati pagati quelli della lavanderia o dei ristoranti. Sì. Ma a che punto siamo? Perché insomma ci siamo lasciati, siamo a 42 ore credo dalla scadenza passata dell'accordo precedente. Ieri Berlusconi, in questa intervista che poi è uscita oggi sul Tempo, dà per scontata la proroga che è stata chiesta, breve, e insomma non dice niente, quindi dice tutto tranquillo. Quindi si presume sia stata concessa, però notizie in realtà non ne abbiamo. Beh, Berlusconi è molto tranquillo perché ha 200 milioni in cassa e quindi si può permettere di esserlo. Tutti gli altri, a partire dai tifosi rossoneri, lo sono un po' meno per quello che oggettivamente la scorsa settimana è stato un momento di grande fibrillazione in casa Fininvest e c'è da dire che tecnicamente non è stata concessa alcuna proroga, nel senso che Fininvest attende il deposito di altri 100 milioni entro la fine della settimana che sta per cominciare, diciamo entro venerdì. A quel punto, di fronte a un ulteriore impegno, si concederà la proroga. Si vedrà, insomma. No, perché vedi Marco, oltre alla bolletta della luce, i cuochi, gli arbitri, i giardinieri, i giocatori stessi, poi ci sarebbero, come direbbe qualcuno, anche gli arbitri da pagare, visto il rigore che gli è andato contro ieri sera. qualcuno lo direbbe, Marco, aspetto. Ma perché Berlusconi continua a dare ai cinesi la patente di interlocutori seri? È credibile. Anche per il futuro, perché c'è quel passaggio che dice comunque hanno intenzioni serie, hanno versato caparra, hanno un progetto, eccetera. Cosa che oggi detta un tifoso del Milan è come mettere un dito nell'occhio, diciamo, no, oggettivamente, ma è comprensibile da parte dei tifosi. Posso aggiungere, Berlusconi ha sempre detto fin dall'inizio: l'unica cosa che prometto e giuro è di lasciare il Milan in mani capaci e di costruire un grande futuro. Guarda, sinceramente io non lo capisco, nel senso che non avendo evidenza su questioni, su aspetti di cui probabilmente Berlusconi e Fininvest stanno in evidenza, io così sereno oggi non mi sentirei di essere. Quando il 5 agosto è stato firmato quel preliminare, che io ho avuto la possibilità poi dopo qualche mese di leggere in qualche pagina, c'era in particolare quella dell'elenco dei possibili soci, attenzione, non soci, perché l'espressione in inglese era maybe, non saranno, ma potrebbero essere, c'era questa famosa lista di 11 soggetti, tra cui in particolare China Construction Bank e Ping An, la seconda assicurazione più grande, più potente della Cina, che diciamo avevano manifestato un interesse rispetto al Milan. E allora sicuramente quelli erano soggetti addirittura più forti economicamente di Suning, no? Tanto per fare un derby cinese a Milano. Però oggi la situazione è profondamente diversa. Oggi la situazione è completamente diversa. Questi soggetti, diciamo, di fatto si sono sfilati. Al momento c'è soltanto il signor Lee, il quale ha dimostrato di non poter mettere insieme tutti i soldi, al di là delle ragioni per cui questi soldi non sono stati messi insieme, perché è vero che nell'ultimo comunicato SES, Sino Europe Sport, continua a far riferimento a ragioni che non dipendono dalla propria volontà, però siamo anche diciamo alla seconda proroga. La differenza, guardate, questa è la stessa vicenda di Mr. B, in cui sono state due esclusive scadute. L'unica diciamo l'unica cosa che fa stare, ripeto, Berlusconi più tranquillo sono i 200 milioni già in cassa. Per il resto siamo in una situazione analoga a quella di Mr. B. Sono passati oltre due anni, insomma, da quando queste vicende sono iniziate. Marco, ti chiedo rapidamente questa valutazione. Sì. Siccome è una cosa di cui si è parlato e qualche voce gira, esiste concretamente la possibilità che ci sia qualcuno che in queste ore si sta facendo avanti per inserirsi? Guarda, che io sappia non c'è nessuna situazione concreta che si potrebbe realizzare così velocemente, se non situazioni del passato, nuove cordate. Ricordiamoci quello che è accaduto quando è stato siglato quel contratto del 5 agosto. Stiamo parlando dei Galatioto e di quelli rimasti fuori. Esattamente, c'era una cordata che da parte la stessa, poi gli altri sono andati via, è rimasto il signor Lee, e quelli, diciamo, potrebbero avere interesse in qualche modo a rifarsi avanti, a prendersi una rivincita, però non mi risulta che ci siano al momento, insomma, passi concreti in questa direzione. Anche perché sempre cinesi sono, e quindi magari sempre le difficoltà in 8 secondi. Ma quanto può centrare in tutto questo la stretta del governo cinese sull'esportazione di capitali? Guarda, io faccio sempre questo piccolo esempio, parliamo di somme diverse, però IDG Capital, una società cinese che ha comprato il 20% del Lione per 100 milioni, l'ha comprata da Google. Ha versato 30 milioni, doveva versare 70 milioni a dicembre, non lo ha fatto. A Lione c'era chi parlava di grandi problemi, naturalmente legati alla stretta monetaria, però a fine febbraio 70 milioni sono stati versati. Qui parliamo di cifre più importanti, però è anche vero che parliamo di un percorso che è iniziato da molto più tempo. Grazie Marco. Ciao Marco. Grazie a voi. Grazie Marco Beninazzo. Allora ci sono 50,35 euro più 13,77 euro uguale 64,12 euro meno 4,25 euro. Per il closing mancano 59,87 euro. Presidente, mancano 160 milioni di euro. Che conti sono? È la spesa. Allora, la cifra esatta per chiudere con i cinesi è 59,87 euro. Euro. Ma è chiaro che devono darci ancora la caparra, sì, 100 milioni di euro, sì. Come caparra almeno una ventina di euro, forse 21, 22 ci possiamo arrivare. No, una caparra coesa è molto, ma molto possiamo molto essere, come detto, insomma, oggi c'è l'intervista, assolutamente ottimisti, tranquilli, anche se allora, posso dire questo saltato, Capuano, sì. I cinesi sono gente seria, sì, detto, coesa e molto positiva. Non mi preoccupo della nuova brevissima proroga richiesta, quindi sono tranquillo, sì, molto fiducioso. Quindi se ci danno la caparra, non meno, ripeto, di 20 euro, no, possiamo arrivare, guardi gente, 18. Possiamo arrivare anche a 22, 23 forse. Allora il closing lo facciamo il primo aprile. Se invece la caparra dovesse slittare di un'inezia, perché non è che staremo a aspettare qua, roba di qualche giorno, insomma, la seconda data utile è il 31 aprile. O il 31 aprile. Peccato che questa, sì, se c'era il 29 febbraio quest'anno era il giorno ideale. E lei se c'era dormiva. Vabbè, allora, questo è il nostro Andro Mercù. Saluto Luca Antonini. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Io non so, ma non te lo chiedo nemmeno. Ti abbiamo chiamato per parlare invece di quello che sta facendo sul campo il Milan. tutto il resto, come dice Montella, i giardinieri vanno, i cuochi vanno, e quindi noi dobbiamo blindarci. Mi sembra che Montella stia facendo un miracolo, Luca, no? In questa situazione. Beh, sì, sta facendo un grandissimo lavoro, anche se secondo me comunque la società, anche se sta portando avanti questo tipo di trattativa, il Milan sa come far stare i giocatori tranquilli, quindi sono sicuro che i ragazzi di questa situazione non ne sentano neanche nessun tipo di pressione, niente. Però oggi con 50 punti il Milan, dopo 27 partite, sta facendo la miglior prestazione praticamente dall'anno dello scudetto. Sì. Che io credo significhi che ha un valore rilevante, cioè sta davvero facendo qualcosa, forse anche fuori dalle possibilità di questo gruppo. Io non so come la pensi tu, Luca. Ma sicuramente non è la squadra che il Milan aveva dopo l'anno dopo che ha vinto lo scudetto. E quindi in un campionato magari non di grande qualità, il Milan sta facendo un'ottima figura. Certo, sicuramente la qualità di quest'anno è sicuramente più bassa rispetto a quella di qualche anno fa. Sì, no, ma non diversa rispetto a quella degli ultimi anni, Luca. No, assolutamente no. È gli vero, ultimi è anni vero. In cui non, le cose non erano andate esattamente così, cioè non eri in corsa per Europa, non eri in corsa per nulla, non avevi questi punti e non avevi neanche queste piccole certezze per il futuro che sono rappresentate comunque dai giovani. A proposito dei giovani, tu dici Milan è bravissimo a far star tranquilli i giocatori, ce ne sono alcuni che però fatalmente anche per ragioni di mercato può essere che non lo siano, e in particolare chi sta tra i pali e Raiola. Ma invece io penso che sia quello più tranquillo del mondo. Ah beh sì, perché lui dice comunque va dalla sua parte l'età, sì, che è 18 anni, ha dalla sua parte una situazione futura economica di grandi risorse, quindi sono convinto che sia chi sta meglio di lui. Senti, tu conosci bene l'ambiente, che Berlusconi non apprezzi del tutto il gioco di Montella l'abbiamo capito. Secondo te riuscirà a farsela passare, visto che poi il ragionamento è quello che abbiamo fatto prima, cioè comunque Montella sta facendo una grande stagione pur tra mille difficoltà? Ma spero sì, perché a me onestamente Montella è un allenatore che piace. Sicuramente non è un Milan come può essere, come gioca il Napoli per esempio, però è un Milan concreto che porta a casa i punti e sta cercando di arrivare a un obiettivo che da qualche anno non c'è più in casa rossonera. Quindi io penserei ora alla concretezza, poi al bel gioco, comprando dei giocatori sicuramente di alta qualità, il gioco migliora. Sì, c'è tempo per ragionare. Grazie Luca. Ciao Luca. Grazie a voi. Ciao. Grazie Luca Antonini. Allora, io saluto Carlo Genta che vi dà appuntamento domani dopo il genere delle 14. Adesso c'è il traffico, poi quando torniamo andiamo a misurare lo stato di salute dell'avversario del Napoli martedì sera a San Paolo, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Andiamo a parlare del Real Madrid e anche del sogno di rimontata del Barcellona. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Marco Asensio, generoso para James. James puede mandar el cuarto, puede llegar. Balón al palo, Asensio. Gol de Marco Asensio. Sentencia, si no lo estaba ya el partido, el Real Madrid. Eibar 0, Real Madrid 4. Questo è Real Madrid di ieri sera. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Come sta il Real? A due giorni ormai dalla partita di Napoli. Dovremmo dire quale Real, però, perché quello che ha giocato ieri difficilmente giocherà dopodomani a Napoli, perché questo è un po' secondo me il tema del, Ieri hanno giocato un'altra squadra e adesso però tornano quelli, diciamo, i galattici, devono giocare per forza e penso che Milan non si può, diciamo, non può fare altrimenti, e quindi sarà un Real Madrid diverso, ovviamente valido, però ieri abbiamo visto, per me, un Madrid impegnarsi più del normale, e anche a livello tattico una cosa, qualcosa di diverso che potrebbe essere utile. Sì, c'è anche questo, c'è un po' di cambio di modulo, c'è comunque una squadra, ne abbiamo parlato, che continua a incassare tanto, non ieri, è vero, segna tanto, ha preso 10 gol nelle ultime 5 partite. Sì, ha preso nelle ultime 6, perdonami. Nelle ultime 11, sì. Sì, segna sempre, questo è il problema del Napoli, perché no, sono 46 partite consecutive segnando, quindi per il Napoli è facile che il Madrid faccia un gol. Però, capito, adesso sono alla BBC, devono giocare per forza, 4-3-3, mentre abbiamo visto che ultimamente, tanto con il 4-4-2 come ieri il 4-2-3-1, li ho visti bene. Però, chiaro, hai quei giocatori lì, martedì sera giocheranno quelli che devono giocare, ma salvo sorpresissime, che non mi aspetto in questo momento, e voglio dire, tanto di cappello, perché non si può rinunciare a Cristiano Ronaldo, non si può rinunciare a Gareth Bale, no? Però la squadra senza di loro ieri, per esempio Benzema, che era trasformato, perché invece di dover lavorare come sempre per, a conto perso, no, per altri, ieri ha pensato a se stesso, ha fatto 2 gol, 2 assist, ha lanciato il 4 gol, insomma era tempo che non gli vedevo fare una partita così, perché deve sempre stare lì a preoccuparsi di altri. Sì, se può giocare da centravanti, Benzema è ancora un grande giocatore. Tra l'altro Benzema che ha di fatto risolto la partita del Real all'andata contro il Napoli. Real che, abbiamo letto, ha requisito tutte 150 le stanze dell'hotel dove sarà ospitato per la sua digiorni a Napoli, così, per andarci leggeri. Sì, assolutamente. Ti faccio sentire, dimmi. Pensavo fosse un albergo più piccolo, però 150 stanze, sì. Due per uno più o meno, due per uno. Ti faccio sentire invece Luis Enrique, perché voglio parlare anche della remontada che a Barcellona sognano. Creo que llegamos en un gran momento a una eliminatoria muy difícil, que de mano está perdida, pero estoy seguro que vamos a intentar hasta el último suspiro. Bisogna dire che non sono scaramantici, quelli di Barcellona. La parola remontata non li aveva portato benissimo nel 2010. No, però voglio dire, cosa devono dire. Io vedo il Barcellona vincere, quasi sicuramente, però no, non vedo il Barcellona. Voglio dire, se il Barcellona vince 5-1, passa il Paris Saint-Germain. Sì. No, perché qui siamo oltre alla remontata, qui siamo ai confini del miracolo e forse anche qualcosa in più. Ma sì, non è mai successo. Tutto chiaro, poi qua arriva in un grande momento, anche lì il cambio tattico di Luis Enrique per me ha funzionato, questo 3-4-3 con il rombo, perché Messi gioca dietro le due punte, funziona, Sergio Roberto può aiuta di più, è tornato un grande Busquets, non è ancora tornato Iniesta sta giocando pochissimo perché non è in forma, non sta bene, con quelli da ieri è stata una partita spettacolare, il Celta è anche una squadra dignitosa se vuoi, però oggi il Celta non è Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain sta bene, con tutto ha sofferto l'ultima partita, però quello che ha fatto vedere contro il Barcellona testimonia il fatto che questa è una grande squadra, non è che devi vincere 5-0 con il Celta, l'Alaves, devi vincere 5-0 Paris Saint-Germain, mi sembra sinceramente impossibile. È tutto molto più complicato. Ma mi spieghi, abbiamo ancora un minutino, a chi stava telefonando Leo Messi, che è stato immortalato in questa immagine, a mimare la telefonata. Allora, qua hanno detto che era il nipotino. Era il nipotino per gli auguri, sì. No, perché il nipotino l'aveva chiamato tutto il pomeriggio, lui non gli aveva potuto rispondere perché era impegnato tutto il tema di tiro, e quindi gli ha dedicato questa cosa. A quel punto però io ho detto, dico il mio pensiero questo, fino a qui sono le notizie ufficiali, la velina che è uscita è questa, chiamava il sobrino, il nipotino. E dico, bene, se voleva dedicargli un gol a questo povero sobrino, ma con quella faccia glielo dedica? Esatto. No? Sai che le veline ufficiali più sono incredibili, più servono per nascondere delle verità scomode. Secondo me il gesto non era tanto carino, non era tanto, insomma, la faccia era una faccia allungatissima, insomma, una faccia anche un po' incarognita. Per me, se proprio si trattava di mandare un messaggio a qualcuno, doveva mandarlo alla dirigenza. Così questi fenomeni sono ancora qui a dover rinnovare il contratto a Messi quando mancano 16 mesi allo svincolo, che è una cosa, cioè, io dico, ogni tanto, no, dico, ma è una cosa incredibile, impensabile. Arriva in sede e gli dice: me ne vado via, vado via grandi. Cioè, ecco. Prossima volta deve stamparsi il numero del telefonino sulla maglietta, così quando segna l'alza e magari il messaggio chiaro. Grazie Filippo. Comunque vedremo. Va bene, ciao caro. Grazie a Filippo Maria Ricci, corrispondente alla Gazzetta dello Sport da Madrid. Questa è la settimana della Spagna, Real Madrid che viene a Napoli martedì, Barcellona che ospita il Paris Saint-Germain mercoledì. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani e Paolo Corleone che si sono alternati in regia, mi scuso con Andrea D'Asti che ci ha aspettato pazientemente ma purtroppo il tempo è finito, ringrazio anche Andrea Mercù per le sue voci, noi ci sentiamo ancora domenica dopo le partite alle 17, ciao! Il calcio è veramente uno sport strano.